Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali, dall'effetto Lego a quello IKEA, passando per il trolley problem. Vi sembrerà strano, ma stiamo parlando di economia. Lo faremo tra poco con l'autore di un libro che ci aiuta a capire quanto l'irrazionalità trovi spazio nelle nostre scelte di tutti i giorni, scelte di consumo e di vita. Come sta cambiando la comunicazione con i big data? In che misura la pubblicità e il marketing utilizzano le informazioni in tempo reale per selezionare il target desiderato? Lo scopriremo tra pochissimo. E poi, per tradizione, il Ponte dell'Immacolata coincide con le gite alla scoperta dei mercatini di Natale. Nel focus sui trend vi raccontiamo allora quelli più unconventional. La Guida Galattica per Autostoppisti è un libro decisamente notevole, forse il più notevole, sicuramente quello di maggior successo, mai pubblicato dalle grandi case editrici dell'Orsa Minore. Più popolare del Manuale di Economia Domestica Celeste, più venduto di altre 53 cose da fare a gravità zero e più discusso della trilogia di bestseller filosofici di Ulon con Lufid, Dove ha sbagliato Dio, Ancora alcuni tra i più grandi sbagli di Dio e Ma chi è questo Dio in fin dei conti? La guida ha già soppiantato l'Enciclopedia Galattica come indiscussa depositaria di tutta la conoscenza e la saggezza per due importanti ragioni. Primo, costa un po' meno. E secondo, reca la scritta Don't Panic, niente panico, in grandi rassicuranti caratteri sulla copertina. Si intitola Scelgo dunque sono, sottotitolo Guida Galattica per gli irrazionali in economia, ed è ugualmente imperdibile come il romanzo cult di Douglas Adams. L'autore è Luciano Canova, economista che insegna alla scuola Enrico Mattei all'Università di Pavia e che, parole sue, ci guida in un viaggio lungo i pianeti del comportamento umano alla scoperta dell'irrazionalità nelle nostre decisioni. Ma in un'economia sempre più guidata dagli algoritmi c'è ancora spazio per l'irrazionalità? È la prima domanda che gli abbiamo fatto. Sempre di più, non tra l'altro per difendere un po' il vino dell'oste, ma perché sostanzialmente in un ambiente complesso le decisioni sono sempre più costrette dal tempo, dalla complessità stessa, e quindi in realtà l'irrazionalità, che poi nel libro cerco di spiegare che forse sarebbe ora di rivedere proprio il concetto tutto di razionalità, includendo al suo interno anche elementi più irrazionali, più emozionali, ha assolutamente un ruolo chiave nella nostra vita di tutti i giorni, anzi sempre più, e anche per rispondere proprio al ruolo che hanno gli algoritmi. Infatti è centrale appunto nel libro il tema della scelta delle decisioni, che hanno molto a che fare con le emozioni. Contrariamente a quanto si pensi, appunto, anche le decisioni che ci sembrano super razionali, è così? Assolutamente, le emozioni intuitivamente giocano un ruolo chiave nelle nostre scelte, e nel libro c'è un capitolo che, partendo appunto dagli studi di economia comportamentale, cerca di spiegare in che senso, in che modo le decisioni possono essere impattate dallo stato emozionale delle persone. Nel tuo modo di raccontare, che è sempre molto pop, pieno di aneddoti, citazioni cinematografiche, citazioni letterarie, tu metti insieme concetti come il calcolo edonico, magari spieghiamo che cos'è, con il cerotto sulla pelle da strappare, oppure correlazione e causalità, psicologia del denaro, euristica della disponibilità. Insomma, potrei andare avanti un bel po', ma mi fermo qui. No, infatti, così magari viene voglia ai lettori di acquistare il libro e poi di leggerlo e di scoprire da sé. E beh, la metafora del cerotto in realtà poi, come anche scritto nel libro, è presa da un altro grandissimo economista, che è Dan Ariely, che lavora appunto su studi di economia comportamentale. Però è una domanda tipica, cioè qual è la strategia migliore per togliersi il cerotto? Uno strappo secco, tolto il dente, tolto il dolore, oppure uno strappo graduale? Questa è una domanda che faccio sempre anche ai miei studenti. Tipicamente la risposta è meglio lo strappo secco, però studi sperimentali mostrano che in realtà sarebbe meglio la seconda strategia, quella dello strappo graduale. E non è una questione banale, perché di fatto questa domanda racchiude un po' il senso delle nostre esperienze, visto che siamo nel mondo della user experience è importante parlarne, cioè il fatto che le persone di fatto integrano nel tempo diversi istanti di dolore o di piacere. L'obiettivo è quello di avere il più possibile momenti di piacere e il meno possibile momenti di dolore, ma il fatto è che le persone non sono brave a fare questa operazione, cioè noi non siamo progettati per calcolare esattamente il valore massimo di un'esperienza di piacere o il valore minimo di un'esperienza di dolore. E quello che facciamo è spesso ricordare un'esperienza quando poi ci viene chiesto di valutarla, e facciamo un errore perché non calcoliamo correttamente questa che matematicamente sarebbe l'integrale di una funzione. Ma cosa facciamo? Ricordiamo il picco, il momento di picco e il momento finale di un'esperienza molto bene, e facciamo una specie di media. Quindi sul cerotto la strategia più sbagliata possibile è proprio quella di toglierlo con uno strappo secco, perché aumentiamo il picco e anche l'istante finale è molto vicino di dolore, e quindi di fatto quando ricorderemo quell'esperienza sarà un'esperienza estremamente dolorosa. Rimuoverlo gradualmente invece è più indicato, proprio per il modo in cui la mente poi di fatto integra le informazioni relative a un'esperienza. E questo vale per il cerotto, ma vale per tutte le esperienze che una persona vive, e qui rientra il discorso del calcolo edonico, perché alla fine come esseri umani cerchiamo di avere il maggior piacere possibile e il minor dolore possibile. Questo in economia è stato chiamato a volte utilità, a volte happiness, felicità, il concetto è soddisfazione e oggi magari anche user experience. Quanto contano, quanto pesano oggi le emozioni nei processi economici, nell'economia della felicità che ormai lo sappiamo esiste? A che punto siamo però negli strumenti per la sua misurazione? Beh, diciamo che ormai è una branca dell'economia molto riconosciuta, che ha tanti risultati anche accreditati. Ormai sono decenni letteralmente che ci sono ricercatori o studiosi che propongono misure alternative al PIL per catturare il benessere delle persone. È interessante che anche l'agenda politica negli ultimi anni questa cosa l'ha parecchio integrata al suo interno, quindi molti governi, compreso quello italiano, accanto alla contabilità nazionale basata sul PIL hanno e tengono conto di misure invece più legate per esempio al benessere soggettivo, che invece sono proprio legate alla percezione di felicità di persone che vengono debitamente intervistate. Qui secondo me, come dico sempre, l'importante è non diventare integralisti da una parte o dall'altra, cioè né integralisti del PIL, perché appunto non è una misura, ma questo ormai è riconosciuto universalmente, che è in grado di catturare perfettamente il benessere di una persona, né integralisti di queste seconde misure, perché comunque sono anch'esse incomplete, catturano una dimensione che è una delle tante che compongono poi la qualità della vita di una persona. Bisogna stare attenti, ormai gli strumenti sono tantissimi, quello che è bello di questo mondo dell'esplosione del dato è che davvero si hanno tantissime informazioni che messe insieme possono dare un panorama molto completo anche per il policy maker, che poi deve prendere decisioni per i cittadini, che alla fine siamo noi. Perché il riferimento alla guida galattica per gli autostoppisti? Perché in realtà, un po' perché sono un nerd e quindi mi piaceva moltissimo la trilogia di Adams, e poi perché questo è un po' un viaggio, quindi di fatto è proprio un viaggio di capitolo in capitolo dentro il mondo dell'irrazionalità, esattamente come per la guida galattica degli autostoppisti di Adams. E poi ci sono qua e là delle citazioni, non voglio nemmeno rovinare, ma il numero 42 in qualche modo torna anche dentro questo libro, per cui era un po' un riferimento, un omaggio a un libro che mi ha molto divertito. E come Adams ha un approccio secondo me intelligente nei confronti della science fiction, molto anche parodistico, mi piaceva e mi piace scrivere di economia in modo rigoroso ma allo stesso tempo leggero, cioè mantenendo comunque la possibilità di ingaggiare il lettore in un'esperienza, per l'appunto come prima, che sia il più possibile piacevole, che sia il cerotto meno indolore, anzi più divertente che possano provare a togliersi leggendo questo libro. Pubblicità in tempo reale e sempre più mirata. I big data rivoluzionano il mondo della comunicazione. Ne parliamo tra pochissimo. Restate con noi perché nella seconda parte andremo anche alla scoperta dei mercatini di Natale che fanno tendenza, subito dopo la pausa. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta Essere e Avere. Di nuovo in studio con Essere Avere, apriamo anche la seconda parte con un libro, si intitola Audience Marketing e racconta la rivoluzione della comunicazione alle prese con i big data e ci spiega perché il marketing grazie alla tecnologia diventa martech e la pubblicità online adtech. Capire i dati e utilizzarli al meglio è la sfida più grande, ma i dati oggi sono i grandi alleati per la trasparenza nel mondo della comunicazione, ci dice Marco Girelli, CEO di Omnicom Media Group, curatore del libro insieme a Edoardo Ambroso. Io penso che in questo momento il vero problema, il vero punto su cui ci dobbiamo confrontare, dobbiamo capire qual è la ricetta migliore, è proprio di quello di come possiamo riuscire dai dati a cogliere degli insight che siano operativi, che possono essere applicati, agiti in chiave di strategia e farlo e misurarne gli effetti, tutto questo in real time. Oggi questo è il problema con cui tutto il mercato si sta misurando. Lei ha detto un cliente informato vale doppio, questo vale anche per i consumatori e quindi per i brand e i consumatori nella filiera completa della comunicazione. C'è bisogno di una cultura condivisa su questi temi? Ah certo, assolutamente, questo è veramente un punto molto importante. In realtà il tema del riuscire ad essere informati, di riuscire a superare l'opacità che spesso caratterizza sia il mondo delle attività di marketing e di comunicazione, ma anche per quello che riguarda il mondo dei consumatori. Per questo diciamo che un cliente informato vale il doppio, nel senso che un cliente informato che può valutare la bontà sia dei servizi nel termine di efficacia e di ritorno sugli investimenti, sia per quanto riguarda l'offerta, permette poi di portare a casa i frutti di chi ci ha creduto e ci ha investito. Focus sui trend. Non solo artigianato e prodotti gastronomici, i mercatini di Natale incontrano il design, l'arte e la moda e propongono nuove mete e nuovi formati. E allora ce li facciamo raccontare da Valentina Ventrelli di Future Concept Lab. Ciao Valentina, bentrovata. Buonasera a tutti. Allora, per iniziare, dove ci porti? Direi che se parliamo di mercatini di Natale non possiamo che partire dal Nord Europa, che ha una tradizione straordinaria in questo senso, appunto da quelli più tradizionali, come dicevi tu giustamente, legati all'artigianato, alla gastronomia e alle tradizioni locali, ma che hanno sicuramente fatto scuola. Devo dire che anche il Nord Europa, che in questo momento è anche al centro di una grande tendenza legata anche al design, alla grafica, a tutto quello che è produzione culturale, sta cambiando in questo senso e infatti ci sono dei mercatini straordinariamente interessanti che non a caso trovano spazio all'interno dei centri d'arte. Uno su tutti in Svezia, quello di Gothenburg, realizzato appunto per tutto il mese di dicembre all'interno del Rådhusstaden, che è un centro d'arte proprio nel porto, che è aperto i battenti da qualche anno e che appunto è ospitato nelle vecchie sale delle caldaie del porto di Gothenburg, che quest'anno ha un programma molto denso di mercato natalizio in cui il design, le creazioni dei giovani designer, laboratori per bambini e anche performance di arte e di danza sono, diciamo, al centro di questa nuova tradizione, se vogliamo. Altra meta europea di culto, un po' meno nota per i mercatini, invece anche a Londra si trova qualcosa di interessante. Senz'altro, è interessante vedere come anche la tradizione dei mercatini si è arrivata anche qui in maniera molto diversificata. Ce ne sono tantissimi nella città di Londra e Londra sta facendo anche una grande promozione turistica intorno a questo. Abbiamo quello della Tate Modern, che è già la seconda edizione in cui la Tate Modern ospita anche qui molto design, molta arte, ma anche poi gastronomia di eccellenza, performance, per cui con una programmazione anche di eventi al proprio interno che stanno davvero illuminando la città di Londra, che in questo momento ha anche bisogno di accogliere il turismo da tutta Europa. Tra l'altro, sempre a Londra è anche interessante quello realizzato dalla BBC. All'interno appunto di un palazzo storico straordinario ha realizzato questo mercato, questo molto orientato alla gastronomia di eccellenza, e ospita tutti i maggiori produttori, anche piccoli, di cibo confezionato e non, con un programma densissimo di accoglienza appunto in questo scenario straordinario di questa dimora storica che sta avendo un grande successo. Beh, molto interessante questa contaminazione anche di business, insomma, per un editore. A casa nostra invece citiamo ovviamente i famosissimi mercatini di Natale di Bolzano e dell'Alto Adige in generale, Valentina, però tu ti sei concentrata su Milano. Perché la città di Milano è da alcuni anni che ha capito appunto questa nuova formula, che è di business ma anche di movimentazione sul territorio, mi viene da dire. Faccio un esempio importante: alla Fonderia Napoleonica torna anche quest'anno il mercatino green, un mercatino che non è semplicemente di piccoli artigiani, ma che diventa sempre più di eccellenza e anche sempre più di processo legato al tema del green, al tema della sostenibilità. Produttori che vanno dalla moda al design della casa, ma anche ai gioielli, al cibo, ancora una volta con questo tema trasversale. Diciamo che Milano ha lavorato molto sulla tematizzazione del mercato, al di là anche noi, tutto sommato, anche a Milano c'è la tradizione, soprattutto a Sant'Ambrogio, del mercatino degli Obeobei, che però negli anni si è molto evoluto e soprattutto ha fatto da stimolo a tutta una serie di iniziative come questa della fonderia legata alla sostenibilità, ma anche all'East Market, che è un altro appuntamento, questo che ha diverse date durante tutto l'anno ed è allo spazio Ventura e raccoglie anche qui, con un taglio diverso, moltissima produzione, piccole produzioni o, come dire, piccole realtà che lavorano sul tema del vintage, che va anche qui trasversalmente su tutti gli oggetti, dalla casa ai gioielli alla moda, e che sta avendo grandissimo successo e che a Natale naturalmente non poteva perdere questa grande occasione, perché di fatto sta diventando una modalità, come dicevi giustamente tu, un modello di business totalmente nuovo. E poi mi anticipavi fenomeno emergente sulla scena milanese, ma non solo, i mercatini privati, nelle case private, quindi recuperando una dimensione di vendita domestica. Ma non solo di vendita, è un grandissimo fenomeno ed è molto interessante, non solo per il tipo di produzioni che si trovano all'interno delle case, ma è molto interessante anche dal punto di vista della comunicazione, perché mentre i due esempi che abbiamo fatto hanno dei canali di comunicazione più tradizionali, comunque naturalmente vengono ripresi dalle riviste, vengono anche promossi sui social, questa dei mercati domestici ha dei canali che sono molto legati ai passaparola, alle piccole comunità. Devo dire che a Milano quest'anno, ma non solo a Milano, giustamente in molte città d'Italia, si sta verificando questo fenomeno di case private, per cui di un ospite sostanzialmente che diventa anche editore di, ancora una volta, produzioni che sono a cavallo tra l'artistico e la moda, il design, ma molto piccole, e il tipo di comunicazione davvero legata al passaparola, e stanno avendo un successo straordinario. È come una dimensione, diciamo, è a metà tra il commercio e anche un tipo di ospitalità, perché sono le case private che vengono aperte e che appunto si occupano anche di intrattenere gli ospiti con magari piccoli spettacoli o piccoli buffet, no? Anch'essi artigianali, che vengono apprezzati sempre di più perché diventano un'alternativa interessante al commercio classico, che durante il periodo natalizio sappiamo essere diciamo molto importante per la sopravvivenza delle aziende. Valentina Ventrelli, grazie, alla prossima. Grazie a voi, buona serata. Il consumautore. Diamo subito il benvenuto al nostro ospite fisso, ci ha raggiunto in studio come sempre Francesco Morace. Ciao Francesco, ben trovato, stasera da dove partiamo? Grazie Maria Luisa, partiamo dal caso editoriale del momento, terzo libro più venduto in questo momento in Italia, L'arte di essere fragili di Alessandro D'Avenia, ed è interessante perché è un libro scritto per gli adolescenti, quindi i genitori in questo momento stiano attenti a quello che racconteremo. D'Avenia definisce Leopardi un predatore di felicità, capovolgendo quindi anche l'immagine comune del poeta dipinto come solitario, infelice. Un invito dunque a ribaltare gli stereotipi anche nei confronti degli adolescenti, quindi disimpegnati, disinteressati alla realtà, concentrati solo sulla virtualità. Non è così. Non è così, e Alessandro D'Avenia fa questa scelta molto bella, anche stilistica, di scrivere delle lettere immaginarie a Giacomo Leopardi, e quindi tutti i capitoli partono proprio dicendo caro Giacomo, e ne cito solo uno di passaggio. Caro Giacomo, in quest'epoca si parla tanto di adolescenti, ma si parla troppo poco con gli adolescenti. Quindi c'è un richiamo a genitori, maestri, insegnanti a dialogare con questi ragazzi e capire che non sono un oggetto misterioso, e bisogna davvero anche dare fiducia a ragazzi molto giovani che sono, devo dire, molto più svegli di un tempo. Nel marketing è il problema del target e dei suoi schemi? Sì, il marketing deve davvero capire che al di là dei millennials, perché oggi si parla solo dei millennials, e poi ci sono invece i nativi digitali e addirittura i bambini, insomma i ragazzi molto giovani, ecco, per loro è ancora più importante dimostrare di esserci. Quindi pur essendo così digitali hanno una capacità quasi intuitiva di capire se chi gli racconta qualcosa è vero, è presente, li rispetta, li riconosce. Ecco, quindi davvero c'è un salto da fare e il marketing oggi purtroppo ancora non l'ha fatto. Una bella sfida, Francesco, commerciale ed educativa insieme. Sì, io credo che qua anche nelle aziende, tra l'altro la componente femminile è fondamentale, perché anche nelle aziende le manager o chi ha responsabilità è soprattutto anche mamma, zia, ecco, quindi allora lì ancora una volta richiamiamo questa nuova centralità del mondo femminile, non più in termini di rivendicazione ma in termini di educazione. Grazie a Francesco Morace, grazie a Roberta Frisani in regia. Essere Avere finisce qui. A domenica prossima. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.